vedo andare via con il cuore in tasca. Sarà semplice follia, l'amore non ti basta. Quante volte ho detto che non ti avrei perso, e ti vedo andare via, sento già la nostalgia mentre fumo un'altra sigaretta. Io ti parlo di me, tu mi parli di te. Dicevi una bugia col sorriso sulle labbra. Quante volte hai detto non è solo sesso. Ora che non sei più mia, ho solo una fotografia. Ora spengo quella sigaretta. Solo una foto.